La fine dell'uomo. Un ciclo di 6 appuntamenti all'insegna della fantascienza radicale. Ogni seconda domenica del mese, a Piano Terra, Milano. Questa è la registrazione del quinto incontro del 12 maggio 2019. Parliamo di neurocapitalismo e dispositivi del tempo, con Giorgio Griziotti. Buonasera a tutti, spero che si senta. Benvenuti a questo quinto incontro, è il penultimo incontro della serie del ciclo sulla fine dell'uomo. Però è l'ultimo, se è il penultimo appuntamento, questo è l'ultimo incontro con un ospite, diciamo, perché il prossimo incontro del mese prossimo sarà una specie di, sarà una festa, sarà, ci saranno delle letture, ci saranno dei corti proiettati, ci sarà da mangiare, si terrà non qui ma alla Cascina Tortiera il 9 giugno, sempre la seconda domenica del mese. E oggi abbiamo Giorgio Griziotti, che è un ingegnere informatico, viene da Parigi, anzi adesso viene da giù dal Salento, e ha scritto un libro che si chiama Neurocapitalismo, che è stato presentato qui due anni fa. E oggi si parlerà sempre di neurocapitalismo, ma coniugandolo con una cosa importante che è il tempo, cioè focalizzando sui dispositivi del tempo. E io avevo preparato una piccolissima introduzione proprio sul tema del tempo, rapportandolo agli altri incontri che abbiamo fatto qui. Il tempo dell'evoluzione, il tempo della fine, perché ogni passaggio evolutivo prevede una fine, prevede la fine di qualche cosa, la fine di quello che c'è stato prima, prevede una morte. E allora ecco che il primo incontro l'abbiamo intitolato Evoluzione e Catastrofe, e la catastrofe non era una visione disfattista, era l'idea appunto che per poter cambiare, per poter mutare, occorreva comunque far sì che ci fosse la capacità di abbandonare ciò che era vecchio, ciò che non poteva più essere, ciò che aveva esaurito la sua funzione in qualche modo. Questa è una legge evolutiva che vale per tutti. Il nostro problema, il problema che c'è sempre quando si affronta un cambiamento, che chiamiamo catastrofe, è quello di far sì in qualche modo di elaborare il lutto senza rischiare di passare insieme col morto anche noi, come avrebbe detto un grande antropologo, Ernesto De Martino. E questo rischio noi continuiamo a viverlo proprio perché questa morte che ci portiamo un po' addosso è la morte delle utopie. Sono queste le grandi utopie novecentesche, oggi sono completamente esaurite, e questo ci lascia in una situazione molto rischiosa. Per utopie intendo sia quelle religiose che quelle laiche, insomma sono queste grandi narrazioni che sono state il socialismo, il marxismo, e questa fine dell'utopia io credo che sia stata causata principalmente, una delle principali cause è stato il problema del tempo. Il problema del tempo che ha cambiato, che la modernità in un qualche modo gli ha cambiato completamente aspetto. Perché il tempo, il nuovo tempo che si è avvalso, che si è instaurato nella modernità, è un tempo della velocità, ed è un tempo che ha in un qualche modo diventato un tempo omogeneo, che ha distrutto tutte le differenze degli altri tempi di cui le persone erano abituate, ed erano i tempi della festa, i tempi del lavoro, il tempo sacro, il tempo profano, il tempo delle stagioni. Tutto questo con la modernità è arrivato a cambiare ed è arrivato a diventare un tempo omogeneo che ha fatto diventare come valore in sé il tempo, indipendentemente dal fine che si andava a prefigurare. Un valore in sé che distruggeva tutti gli altri valori. E questo poi l'abbiamo visto anche nel terzo incontro, quello sull'antropocene, in cui c'era questa domanda su quando è stato il momento temporale in cui c'è stato questo cambiamento per cui diciamo che l'essere umano diventava una forza geologica in grado di cambiare il clima, in grado di cambiare l'ambiente in un modo irreversibile. C'è stata una discussione che ha un po' ancora soggetta a molte contraddittorie, perché c'è chi vuole vederlo come una responsabilità unica del capitale e chi invece lo vede come qualcosa che va più indietro nel tempo. E questo è ora l'eccezionalità umana che ha causato questa accelerazione del tempo è stata quella che ha messo in grado l'essere umano di intervenire in modo catastrofico e irreversibile, forse irreversibile, speriamo di no, sì, noi tutti ci auguriamo di no, ma irreversibile rispetto a cambiamenti che renderebbero la vita dell'uomo impossibile su questo pianeta. Abbiamo visto anche nel quarto incontro, quello dedicato al nucleare, sia al nucleare di guerra sia al nucleare di pace, come il tema del tempo in quello di guerra fosse questa aspettativa dell'essere umano di avere ancora una possibilità, una specie di giorno dopo, per poter in qualche modo ricominciare, che però è un ricominciamento improbabile dopo una distruzione nucleare. E così come abbiamo visto che il tempo nel nucleare di pace è un tempo che non ha misura umana, perché si misura il tempo delle radiazioni, si calcola al di là del tempo di vita di un individuo, ma anche del tempo di vita di civiltà, cioè ha una misurazione per noi impensabile. Ma forse ancora di più il tema del tempo l'abbiamo visto nel secondo incontro, quello sul turismo, perché lì c'è, in un qualche modo, c'è stato dimostrato come questa ricerca spasmodica molto di oggi di cercare delle esperienze andando in giro, andando a fare i turisti in ogni posto, cercando di trovare esperienze nuove, sensazioni nuove. Tutto questo è in un qualche modo forse la ricerca disperata di trovare un tempo altro, cioè un tempo che in qualche modo sia il tempo improduttivo. E questo lo si verifica guardando quella che è l'esperienza principale del turista medio, e cioè la coda, il fatto di fare enormi file, il fatto che in quel momento quella è l'esperienza vera del turista, è l'esperienza in cui può ancora sentire un tempo diverso da quello che normalmente è costretto a subire, cioè un tempo unico, omologato, in cui c'è sempre la produzione, anche quando non fai, anche quando pensi di essere in vacanza produci, anche quando sei dopo lavoro sei sempre lì a produrre, perché guardi gli strumenti tecnologici, perché sei sempre produttivo, perché sei sempre reperibile, eccetera. E invece in questo momento, in questa esperienza strana del turista più rozzo in qualche modo, è proprio è come se fosse quasi una ribellione al senso comune. Ecco, questi sono solo degli accenni, e questa sera avremo invece con Giorgio, ci affronterà questo aspetto dal punto di vista dei dispositivi tecnologici che hanno contribuito a un'accelerazione ancora maggiore per la distruzione del tempo, per un tempo unico che spero che non distrugga tutti noi. Vediamo. Ne parliamo. Ok. Allora stasera, innanzitutto grazie dell'invito a Giuliano, a Avo, e grazie di essere venuti stasera. Dunque, stasera poi vediamo un film con Buster Keaton, che è un Buster Keaton anziano, io l'ho guardato un po', è un Buster Keaton anziano che fa questo film di Samuel Beckett in un tempo rarefatto, mentre qui abbiamo un altro grande attore dell'epoca del cinema muto che si chiama Aaron Lloyd, E questa è una delle scene, un po' un meme come si dice oggi, una delle scene simboliche di questo cinema muto, in cui lo vediamo, proprio per entrare nel tema del tempo, appeso a un orologio, come se fosse una metafora della vita appesa al tempo, la sua vita appesa al tempo, perché se cade giù, voi lo sapete, muore. Allora, sempre per restare in questa epoca, perché cominciamo a parlare proprio dall'era precedente alla nostra, che è quella, l'era industriale, l'era del capitalismo industriale, siamo sempre nell'epoca. Un'altra scena estremamente rappresentativa è quella che penso che tutti hanno vista in una maniera o un'altra, di Charlie Chaplin in tempi moderni, in cui alla catena di montaggio è diventa un po' suonato e bollito, no? E prende i ritmi della catena di montaggio e subisce i ritmi della catena di montaggio. È più vicino a noi, sempre per parlare del tempo nella produzione del capitalismo industriale, più vicino nello spazio e un pochino anche nel tempo, c'era quel famoso film culto, ormai credo che è La classe operaia va in paradiso, in cui c'è Gian Maria Volonté che doveva produrre a Cottimo, e a un certo punto si taglia un dito e comincia a essere un po' disperato, non sa più, ha perso i suoi punti di riferimento e va a trovare un vecchio operaio che è ricoverato in un ospedale psichiatrico, che si chiama Militina, e gli spiega che la catena di montaggio ha reso completamente schizofrenico, e gli spiega che lui, per aumentare i ritmi, pensava un pezzo un culo, un pezzo un culo, e fine che si è tagliato il dito, no? In ogni caso, quindi, già all'epoca industriale ci sono le notifiche che noi oggi riceviamo nel corso della giornata, nel corso della vita, c'erano già quindi le notifiche della catena di montaggio, che ci obbligava a dei ritmi molto tesi. E se vogliamo tornare un attimo a una riflessione filosofica, Marx ci dice che per il capitalismo industriale il tempo è alla base del valore, ma per Marx anche il tempo era anche, questa è la sua idea, la trama dell'essere, e questo mi sembra la cosa da sviluppare. Comunque, nel capitalismo industriale il tempo è la materia e misura del lavoro e delle mercanzie. Ora, in queste catene di montaggio il prodotto più simbolico è l'automobile, no? Di quell'epoca, lo è ancora adesso, ma adesso è molto più automatizzato. E se ci pensate, anche l'automobile era un oggetto tecnico che aveva un rapporto con lo spazio-tempo, che cambiava il rapporto con lo spazio-tempo, no? E quindi questo cambiamento di paradigma introdotto dall'automobile, poi vedremo i dispositivi attuali, è qualcosa che è stato elaborato poi con figure mitologiche oppure astronomiche, no? Si parlava del centauro o del bolide, e fino ad arrivare, dal punto di vista simbolico per quanto riguarda l'automobile, al famoso, più famoso romanzo della Big Generation, che si chiama On the Road, e se qualcuno si ricorda, Kerouac, che ha scritto questo romanzo, lo scrive su un rotolo di teletype, lo scrive tutto in un colpo, praticamente dormendo il minimo e mangiando il minimo per una settimana scrive. Questa è la prima versione del famoso romanzo On the Road, sulla strada, e su questo rotolo unico di teletype l'hanno esposto qualche volta, si poteva vedere, e che per me era come una metafora del rotolo, del nastro della stradale, no? Infatti On the Road, l'auto è al centro di tutto. Ora passiamo un attimo a quello che io ho pensato essere, in quanto lavorando lavorando tutta la vita nell'informatica, essere un po' il segno del cambiamento, della fine dei tempi moderni, quindi della fine del capitalismo l'inizio della fine del capitalismo industriale. Allora diciamo subito che i computer sin dall'inizio, sin dagli anni 50, sin da Turing in poi, insomma, hanno tutti un orologio interno. Per poter funzionare devono disporre di un orologio interno, ma per i primi 10 o 20 anni in realtà il computer funzionava in un modo che potremmo definire autistico. Sì, avevano un orologio interno, però non comunicavano col mondo esterno. Gli si metteva dentro una sequenza di programmi che loro facevano, eseguivano, dando dei risultati, e poi se c'era qualcosa che non andava tutto si fermava. Allora, a un certo punto, questo nel 56 per dirvi, viene fuori la necessità, o comunque viene inventato questo concetto che in inglese si chiama interrupt, ma è restato, no? Per far comunicare i computer con il mondo esterno. Viene fuori in un laboratorio di ricerca niente meno che della NASA, che aveva un computer che registrava o pilotava una galleria del vento, e evidentemente per dei bisogni, non entro nel dettaglio, per dei bisogni rispetto a questa a questo funzionamento c'era bisogno su eventi speciali di poter interrompere il programma del computer per fargli fare qualche cos'altro. E questo è il principio, no? Con cui i computer cominciano a essere collegati, a interagire, a sentire o inviare degli stimoli col mondo esterno. E questa cosa di potere, quindi il principio con cui poi vanno a pilotare le macchine, gli automatismi, i robot all'interno delle fabbriche, è il principio di funzionamento con cui il computer esce da questo modo autistico, e per la prima volta, diciamo, è costretto a mettere in relazione l'orologio interno del computer, che comunque c'era, era necessario per far funzionare i programmi, con il tempo nostro, con il tempo universale dell'uomo. E per questo si parla di real-time computing. Ecco, qua c'è un cambiamento in cui una macchina, che è la macchina simbolica di quello che poi io chiamerò il neurocapitalismo, ma se volete il capitalismo cognitivo, biocognitivo, entra in relazione col tempo degli uomini, quindi entra in relazione anche con gli uomini. Ecco, diciamo che puoi far vedere l'altra ancora. Ecco, questo è simbolicamente il computer che comincia a far funzionare, a entrare nel funzionamento della fabbrica. Però il real time del computer, così viene chiamato, real time computing, il real time del computing non è, in realtà è un tempo che si confronta col tempo umano, perché a partire da lì noi interagiamo con il computer, ma non è il tempo del computer, non è il tempo umano. E infatti diciamo che in questo senso Caronia aveva ragione quando scrive che il tempo reale della comunicazione, io direi anche dei computer, della comunicazione in rete, ma inizialmente dei computer, non è affatto più sintonizzato col nostro senso della durata di quanto lo fosse il tempo precisamente scandito dagli orologi, che fu una delle condizioni imprescindibili dell'età industriale. Anzi, io direi, visto da oggi, che siamo sempre meno sintonizzati con questi tempi. E evidentemente abbiamo parlato di rete, quindi il passaggio successivo, il computer interagisce con le macchine della fabbrica, le pilota e ne sente gli stimoli, ad esempio contare i pezzi, e fare tutta una serie di operazioni, ma poi il passaggio successivo è quello che il computer interagisce con il resto del mondo e non soltanto con le macchine della fabbrica. Passiamo alla prossima. Allora, il passaggio successivo, più che passaggio successivo, abbiamo accennato un po' al computer che esce dal suo modo autistico di funzionare e comincia a interagire con il mondo, però i computer, anche quando erano i PC, no, che degli anni 80, 90, restano sempre degli oggetti che sono lì su un tavolino, no? E se vogliamo farli funzionare bisogna attaccarli, all'epoca c'erano i modem, bisogna aspettare un minuto e poi bene o male funzionavano più con la mente che non con il corpo. Allora a un certo punto, su questo è forse la cosa su cui ho lavorato di più, arriva il telefonino, il cellulare. Allora, il cellulare fa pensare delle cose, fa pensare innanzitutto che se voi riflettete un attimo a tutte le rivoluzioni industriali, tutte le rivoluzioni, scusate, tecniche, tecnologiche, che hanno portato degli oggetti a tutti, o a tutti, che hanno diffuso degli oggetti, allora potete pensare alla televisione, poi si può pensare all'automobile, si può pensare anche alla tipografia, che è stata un'altra grande rivoluzione, McLuhan ne aveva parlato. Il cellulare è un paradigma al di là e al di sopra, perché in 20 o 30 anni praticamente l'80%, diciamo, dell'umanità porta su di sé un oggetto comunicante con la rete, cioè un cellulare, un telefonino, uno smartphone, quello che volete, insomma, questo oggetto è un oggetto comunicante della rete, e che nel suo utilizzo, e questo vale sia per i paesi, chiamiamoli, una volta si diceva industrializzati, chiamiamoli ricchi, anche poi se i ricchi sono pochi, sia per i paesi poveri o in via di sviluppo, se volete. E quindi non c'è nessun'altra rivoluzione che ha avuto una diffusione così capillare. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che quella che scrivo lì è il cellulare come primo dispositivo biopolitico. Allora, primo dispositivo, il principale direi, perché tutti gli oggetti tecnici a grande diffusione sono effettivamente degli oggetti biopolitici, intesi voi sapete, intesi come poteva essere intesa da Foucault la biopolitica, no? Cioè degli oggetti che in qualche maniera partecipano alla costruzione delle norme, delle pratiche che vengono adottate dalla governance per regolare la vita, la nostra vita biologica. Vita biologica vuol dire nascita, morte, salute, educazione, eccetera. Direttamente, non c'è solo le tavole della legge, ma ci sono dei modi per raggiungerci direttamente. È ovvio che uno strumento che ha questa potenza, perché oggi lo sapete benissimo che gli smartphone hanno una potenza che è, non so, migliaia di volte quello che potevano essere i primi PC e che portiamo su di noi, può essere utilizzato ed è utilizzato come uno strumento biopolitico, nel senso che va a impattare direttamente i nostri sensi. Non è più come il PC che dovevamo accenderlo e stare a riflettere su quello che scrivevamo. Il cellulare, lo smartphone, è qualcosa che entra direttamente in contatto con tutti i nostri sensi e quindi con il nostro corpo. E quindi a partire da questo ho dato questa diffusione, ho cercato di sviluppare un po' questo concetto che io ho chiamato biopermedia, che è un termine che ho derivato dall'assemblaggio di biopolitica, no? Bios, che è vita, e ipermedia, come una delle principali dimensioni della mediazione tecnologica. E queste tecnologie che portiamo su di noi, sul nostro corpo, o che sono disposte sul territorio, perché adesso c'è tutto questo sviluppo dell'internet degli oggetti che quindi sono attorno a noi, anche se non lo sappiamo, che interagiscono con noi, costituiscono una nuvola immateriale che ci avviluppa e ci sottomette a una percezione multisensoriale in cui lo spazio reale e lo spazio virtuale della rete si confondono e vengono utilizzate per stimolarci anche emozionalmente, come vediamo dopo. E quindi siamo nell'ambito in cui il corpo, i nostri corpi nella loro integralità, si connettono ai dispositivi di rete in modo tanto forte, tanto intimo, da entrare in una simbiosi in cui avvengono delle, direi, delle modificazioni e delle simulazioni reciproche, cioè quindi siamo profondamente influenzati nel corso di tutto il corso della giornata e quindi della vita. Passiamo al prossimo slide. Ecco qui, quindi passiamo da Biopermedia a, abbiamo parlato all'inizio del lavoro, parliamo ancora del lavoro, ma del lavoro nel neurocapitalismo. Allora io ho preso, come dire, spunto da uno storico che si chiama Lewis Mumford, scusate, uno storico americano che è vissuto negli anni 60-70 e che ha scritto un libro molto importante che si chiama Il mito della macchina, in cui il concetto centrale, il suo concetto centrale era quello di questa mega macchina, che la mega macchina era, secondo lui, un complesso sociale e tecnologico che modella le grandi organizzazioni e i progetti. Lui era addirittura partito, Mumford, su questo concetto per spiegare come mai con delle tecnologie così povere, parlo all'epoca degli antichi egizi, non si conosceva neanche la ruota, questi riescono a costruire degli immensi monumenti come le piramidi in cui muovono dei pesi, dei volumi incredibili. E poi applica sempre questo concetto della mega macchina al suo periodo, dicendo: le mega macchine del mio periodo, lui lo scrive nel 67, sono il complesso militare, industriale e nucleare. Allora, la mega macchina è questa organizzazione più o meno immensa, o grande o immensa, in cui ciascuno di noi, ogni persona che partecipa alla mega, che è integrata, non è che un ingranaggio intercambiabile. Questa era la sua idea. E quindi a partire da lì a me è venuto in mente che le mega macchine esistono ancora oggi, in cui noi siamo gli ingranaggi, no? E le mega macchine sono, a mio parere, le grandi piattaforme del capitalismo. Allora, voi sapete gli acronimi GAFAM, NATU, insomma, sto entrando in tutti i dettagli, Google, Amazon, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. E sono mega macchine che vivono solo perché noi diamo un contributo, perché noi partecipiamo. Ecco, solo un piccolo accenno. Genesi del tempo di lavoro algoritmico, perché queste mega macchine non sono nate da niente. Prima che avessero la diffusione, la partecipazione, avete visto anche la polemica recentissima di Facebook, uno degli ex fondatori che adesso non partecipa più, che dice: ma bisogna spezzarla perché è un monopolio troppo esteso e troppo potente. Comunque non nasce da nulla queste piattaforme, nascono, e anche questo mi sono un po' riferito quando ne ho scritto rispetto alla mia esperienza, nascono negli anni 70, 80, soprattutto 80-90, le prime grandi piattaforme non c'era internet e quindi non erano accessibili a tutti, però esistevano e sono state introdotte all'interno delle grandi imprese, delle grandi compagnie, delle multinazionali. Si chiamava ERP, Enterprise Resource Planning, questa era la sigla, ma in realtà, io questo l'ho vissuto perché purtroppo ci ho lavorato, si trattava di prendere questi mega software, le grandi imprese, le multinazionali, e di implementarle, cioè metterle all'interno dell'impresa. Il fine cos'era? Era di aumentare la produttività, di controllare i salariati, ma anche di uniformizzare, come dire, una specie di sottocultura dell'impresa. E poi a un certo punto, una volta, quindi facevano tutte un insieme di, cercavano di coprire, estraendo del sapere dal lavoro vivo della gente, perché per implementare questi software bisognava capire come funzionava il lavoro all'interno della multinazionale. Ma evidentemente questa cosa era già, introduce tutta una serie di principi che poi ritroviamo con le grandi piattaforme, che sono le notifiche, che sono il fatto di poter lavorare al di là dell'orario di lavoro. E a un certo punto queste grandi piattaforme vanno addirittura verso l'esterno, quando comincia tutta la fase che gli americani sempre chiamano customer CRM, Customer Relationship Management, cioè la multinazionale comincia a captare e a interfacciarsi con i suoi clienti per saperne di più. Ecco, questa è stata, diciamo, la pista di lancio come principio delle grandi piattaforme, anche se poi ovviamente le cose sono evolute. Passi all'altra fotografia, per poi arrivare adesso, stiamo sempre parlando dell'ambito del lavoro, a quello, adesso non è che entro in molti dettagli, il tempo è quello che è, al diciamo digital labor. Voi sapete che ormai c'è tutto questo filone, ci sono articoli, libri che vengono scritti, in cui sono, allora c'è tutta l'uberizzazione, insomma, sto parlando dell'uberizzazione per dire dei software che ci fanno diventare degli autisti, che ci fanno diventare affittacamere, i software che pilotano i rider che vanno a fare le consegne, e i software che pilotano al di là di ogni spazialità, e quindi in un tempo completamente astratto, in uno spazio completamente astratto, i lavoratori del click. Sapete che c'è tutto questo filone, di cui Amazon è forse il primo, che impiega centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, perché non è limitato a un posto, in cui qualche centesimo di dollaro per ogni click, in cui si riconosce una fotografia, in cui si va a fare una supervisione del significato di una frase, eccetera, eccetera. E noi stessi lo facciamo, quando i software in cui siamo obbligati a utilizzare, che ci chiedono di riconoscere delle immagini, no? Il reCAPTCHA, che dice riconoscete le macchine dentro questa figura, riconoscete i passaggi a livello. Ecco, quella lì è un modo in realtà per educare dietro, per insegnare a degli algoritmi a fare dei riconoscimenti automatici. Quindi ci fanno fare questa cosa qua col pretesto della sicurezza, ma in realtà stiamo facendo un lavoro che serve a loro. Ecco, quindi ecco come il tempo e le macchine intervengono in queste nuove filoni di lavoro. Scusi, che sono... Questo pezzo non ho capito, cioè, cosa accade realmente, è per me impensabile. Cioè, la macchina cosa prende da questo? No, quando ci fanno riconoscere delle cose, in realtà noi stiamo insegnando, è il machine learning, stiamo insegnando a un programma a riconoscere la differenza tra un'immagine con dentro un'automobile e un'immagine senza un'automobile. E quando questo viene fatto milioni di volte, poi questo programma ha imparato e è capace di fare il riconoscimento per altri fini, no? Il riconoscimento degli oggetti o delle persone o di qualsiasi cosa, o di una malattia o di un'immagine. Addestriamo la macchina. Esatto, è un modo di addestrare l'algoritmo più che la macchina. La macchina dietro è l'algoritmo. Però poi magari, ma hai fatto bene se non hai capito, poi magari vado avanti veloce per fare una discussione dopo. Ecco, questo digital labor, oltretutto, in questa maniera qua, siccome è extraterritoriale, non ha più tutte le protezioni sociali che aveva, e quindi è un lavoro sottopagato, di grande sfruttamento, senza protezioni sociali che c'erano invece al tempo del capitalismo industriale. Andiamo avanti. Ecco, nel bioipermedia, quindi, qua parliamo sempre dello spazio-tempo, no? Nel bioipermedia siamo in una società degli attraversamenti. Allora do due o tre concetti anche qua per poi magari sviluppare il discorso assieme, che è sempre, io penso, la parte più interessante, quella di discutere assieme. Innanzitutto io ho scritto qua Interactive Human. Abbiamo parlato prima dell'Interact, come questo dispositivo tecnologico che permette ai computer di interagire col mondo esterno. E diciamo che adesso, nel tempo del bioipermedia, è un po', le cose sembrano a prima vista capovolte. non siamo più noi che diciamo ai computer di interagire col mondo esterno, ma sono i computer, diciamo la rete, o come avete capito, no? Che ci mandano delle notificazioni continue, delle frammentazioni dell'attenzione continua. Quindi, se volessimo fare della fantascienza buon mercato, diremmo che questa è la vendetta delle macchine. Anzi, molti ci dicono: ah, ma le macchine sono pericolose. In realtà le macchine ci controllano, ma non sono le macchine che ci controllano, sono le persone che, o la classe dirigente, o l'1% contro il 99%, che decide che le macchine facciano queste cose, no? Che le macchine ci mandino le notifiche, che le macchine spingano le emozioni, che le macchine interrompano la nostra attenzione. Questo è il tempo del capitalismo. Ma siccome ho intitolato Società degli attraversamenti, è perché in questo contesto di frammentazione dell'attenzione, di rottura della barriera fra tempo di vita e tempo di lavoro, che ormai abbiamo assunto tutti, no? Abbiamo assunto, non so se la pratichiamo, spero di no per voi, ma insomma è ben nella società. Ecco, in questo, il limite estremo di questo è la distopia che io ho citato nel neurocapitalismo, di questo film, che poi ho citato anche in cronofagia, visto che è stata ripresa, di questo film che si chiama In Time, di Mike Nichol, del 2011, in cui in pratica le persone sono modificate, è un film di fantascienza, sono modificate geneticamente per non invecchiare, ma possono vivere solo, a partire da 25 anni, possono vivere solo per la durata del capitale tempo che posseggono. Quindi il capitale tempo, la moneta tempo, è il loro tempo di vita. Ecco, questa è la distopia del film. L'idea, secondo me, è molto forte, perché è una metafora molto forte di quello che sta succedendo attorno a noi, anche se poi il film non è purtroppo un grande capolavoro, però è molto interessante. E quindi ci mostra un film in cui pochi, privilegiati e ricchi hanno una vita senza limiti, perché hanno un grandissimo capitale tempo in luoghi non inquinati, mentre la stragrande maggioranza vive in una terra molto degradata, battendosi giorno per giorno per la sopravvivenza, per guadagnare del capitale tempo per vivere ancora un po' di più. Insomma, se voi sapete che avete nel conto in banca 10 giorni di vita, in 10 giorni dovete guadagnare qualche altro soldo, se no non qualche altro tempo, se no non siete morti. Ecco, la società degli attraversamenti è un po' diciamo legata a questi concetti, no? Perché l'idea, già all'epoca Tony Negri negli anni 70 aveva parlato del passaggio dalla figura dell'operaio massa all'operaio sociale, ma a me sembra che oggi come oggi c'è un passaggio, mentre l'era industriale, quella precedente e quindi il secolo precedente, forse anche di più, il secolo precedente, una parte del secolo precedente fino agli anni, diciamo, 60-70, era una società che si può definire una società delle appartenenze, no? In cui, per esempio, la classe operaia si identificava in un'appartenenza che poi poteva essere politica, partitica, sindacale, ma non solo la classe operaia. In generale c'era questa società delle appartenenze, che questa società delle appartenenza lascia il posto in questa situazione, con questi dispositivi tecnologici che gestiscono il tempo, e questo è quello che secondo me vuole il neurocapitalismo, a una società degli attraversamenti, che sembra costituita da, come dire, nomadismi che sono anche fisici per alcuni, per i migranti per esempio, che probabilmente sono quelli che vorrebbero di più avere una sedentarietà, ma nomadismi anche esistenziali, delle derive, no? Ecco, in uno spazio, uno spazio-tempo che è continuamente ridefinito da da algoritmi e da automatismi che sono lì per raccogliere dei dati, per classificare e valorizzare, secondo il concetto capitalistico, dei miliardi di singolarità. Noi siamo le singolarità, no? E le loro pratiche. Questo è la società in cui si formano delle megalopoli, cioè gruppi di metropoli, soprattutto in Asia, no? Cioè, ce n'è una in Giappone di 34 milioni di persone, un'altra in Cina, che si stanno formando, e in cui però in realtà c'è una socialità estremamente generica, di basso livello, quella che viene definita una folla solitaria. Questi dispositivi spingono a questo tipo di situazione, salvo cambiamenti felici, come vedremo alla fine. Ecco, questa è l'idea, insomma, che poi, di cui possiamo parlare, del neonomadismo, del fatto che siamo persi in questo spazio-tempo. Due parole ancora per dire, non so, mi è venuto a un certo punto l'idea, questo non l'avevo trattato nel libro, però del fatto che sono scritti posteriori, nel fatto che stiamo passando, probabilmente si è tanto parlato di un'economia dell'attenzione in tutta la prima fase, diciamo, di quello che ho chiamato di ipermedia, i primi 20 anni dei telefonini e dei cellulari, così, però adesso probabilmente dall'attenzione stiamo passando dall'economia dell'attenzione, molti dicono, io sono abbastanza d'accordo, che stiamo passando a un'economia delle emozioni. Infatti, se io non ho inventato sicuramente, ma ho dato il titolo neurocapitalismo al libro, esistono invece delle discipline che esistevano relativamente recenti, ma che esistevano prima di neurocapitalismo, e che sono neuromarketing, neuroeconomia e neuroeconomia. Notate bene, ci sono stati già due premi Nobel di neuroeconomia, di cui il secondo, Richard Thaler, è relativamente recente, ha preso il premio 2 anni fa. Lui si definisce un paternalista libertario. Allora, l'idea di base di queste discipline, non posso entrare nei dettagli adesso, è quella di cercare di farci prendere delle decisioni senza che ne siamo coscienti, o che ne siamo poco coscienti, insomma, qualcosa che ha a che fare con l'inconscio, no? E infatti Richard Thaler è l'inventore, per questo gli è andato il premio Nobel, è l'inventore di questo principio che si chiama nudge in inglese, che potremmo tradurre con la spinta gentile, no? Cercano di orientarti per farti prendere una decisione senza che tu te ne renda bene conto. Questa è l'idea, e gli è andato il premio Nobel per questo, e questo principio è riconosciuto come utilizzata anche nella politica. Ad esempio, non ho i dettagli, ma Cameron e Obama l'hanno utilizzato. Ho più dettagli, poi ne possiamo parlare, riguardo a Macron, perché vivo in Francia e so che lui l'ha utilizzato, no? Di cercare di prendere delle decisioni legislative o esecutive per ottenere certi risultati senza rivelare il fine reale. Ecco, questa è la situazione, diciamo, da questo punto di vista, e ha a che fare, per questo ho ripreso questa terminologia della servitù volontaria, su cui ho scritto un po', perché questo modo, questi dispositivi che giocano sullo spazio, sul tempo e sui comportamenti, senza che noi ce ne rendiamo troppo conto, hanno a che fare con questa servitù volontaria, di cui è scritto un francese che si chiama Etienne de la Boétie 5 secoli fa, in cui ha scritto questo pamphlet, questo piccolo scritto, non è molto lungo, di 20 pagine, in cui dice: ma com'è che voi siete tanti e vi fate sottomettere da un piccolo manipolo, e da un dittatore, ma un fedatario, un piccolo manipolo, com'è questa cosa? Se voi potreste avere il potere, ma cedete il potere volontariamente. Ecco, allora un po' siamo in questa situazione, perché adottiamo queste macchine, questi oggetti tecnologici così attraenti, fra virgolette, oppure le applicazioni gratuite, così, che in realtà entrano in gioco su questa cosa della servitù volontaria a cui siamo legati. E cito a questo proposito, e poi passiamo all'ultima slide, cito a questo proposito questa scrittrice che ha pubblicato recentemente un libro che si chiama Capitalismo di sorveglianza, Shoshana Zuboff, non è stato ancora tradotto, è stato pubblicato in inglese, e che dice: proprio come la civiltà industriale si è affermata a spese della natura, quindi ci torniamo al discorso dei capitalocene, e ora minaccia di costarci la terra, e questo lo sentiamo tutti i giorni, no? Di come stanno andando le cose, la civiltà dell'informazione progettata dal capitalismo di sorveglianza, che è il neurocapitalismo, è un equivalente per me, e il suo potere strumentale prospererà a spese della natura umana e minaccia di costarci la nostra umanità. Ecco, questo è il sunto e la sintesi del concetto che volevo spiegare. Allora passiamo all'ultima slide e cerchiamo di darci un po' di speranza, no? Perché sennò è finita. Allora, ci sono degli spice e veder gialli, perché vivo in Francia e ci sono i gilet gialli, e io vado spesso alle loro manifestazioni, e speriamo che questi spice invader ci aiutino a cambiare un po' le cose. Allora, parliamo prima di questo, poi magari accendiamo alla sharing economy. Direi che anche qui ci sono delle relazioni col tempo, ma direi che questo movimento dei gilet gialli è abbastanza interessante, perché a mio parere sta mostrando, e non solo a mio parere, sembra dare delle indicazioni che sono sia post-capitaliste che sia post-sinistra novecentesca, che, come ci diceva Giuliano prima, cioè la fine delle utopie, non con la fine dell'uomo. E qua stiamo andando in un ambito in cui effettivamente voltiamo un attimo la pagina della sinistra novecentesca, perché per una delle prime volte, non so, poi non è che ho la visione totale del mondo, ma alla nuova composizione tecnica, per usare una terminologia marxista per una volta, alla nuova composizione tecnica del capitalismo, cioè al neurocapitalismo, al digital labor, a queste forme di organizzazione del neurocapitalismo, o del capitalismo biocognitivo, corrisponde un'espressione politica di una nuova composizione politica di classe. Questo, secondo me, è il sunto del movimento dei gilet gialli. Dopodiché do due o tre termini, uno in relazione al tempo. Innanzitutto la durata, perché è un movimento che, è vero, adesso al primo maggio è stato ancora molto forte, adesso forse andando verso l'estate ci sarà un calo, però ha stabilito, come dire, un nuovo livello. Il saper resistere, non so poi nel dettaglio le informazioni che possono, cioè sulla rete le avete viste, quelli che si interessano le avranno viste, ma insomma saper resistere a dei livelli di repressione che sono repressione fisica, poliziesca, con moltissima gente mutilata, ferita, che sono repressione giudiziaria, con migliaia e migliaia di persone che subiscono dei processi per delle cose, talvolta per cose inique, 6 mesi di prigione, giusto per citare, 6 mesi di prigione per uno che nella manifestazione ha gridato ai poliziotti: suicidatevi. Perché è vero che si suicidano i poliziotti, però, e quindi era un oltraggio a pubblico ufficiale, 6 mesi di, ecco, per dirvi il livello, e di repressione mediatica, perché tutti i media mainstream hanno fatto corpo contro questo movimento, e questo significa che questo movimento conta. Ecco, questa cosa mi sembra che sia significativa, che ci apre forse per andare un po' al di là della visione, delle visioni, come dire, fine dell'uomo, ci dà forse la nascita di un uomo nuovo, speriamo, non lo so. Ecco, quindi per terminare su questo movimento, direi che ci sono altri aspetti che sono la vittoria stessata. C'è una vittoria decisiva sui media mainstream. I media mainstream continuano, saranno anche potenti, tutto quanto, però a mio parere, a partire da questo movimento dei giri gialli in Francia, hanno perso molto, molto della loro credibilità e secondo me non la recupereranno. E infine anche dal punto di vista organizzativo, perché al di là delle manifestazioni c'è una vera e proprio, dei veri e propri tentativi, magari imperfetti, magari con degli errori, così, di organizzazioni di democrazia diretta dal basso. Quindi non stiamo parlando di Rousseau e del Movimento 5 Stelle, è qualcosa che viene dal basso. Infatti ci sono state queste assemblee in due occasioni diverse in cui gente dei gilet gialli convergono a città e discutono dei grandi temi di conduzione politica della società. Ecco, questo poi magari, se volete, ne discutiamo anche di questo, secondo quello che vi interessa. Non vado nel dettaglio su quello che è la sharing economy, come potrebbe essere utilizzata. Non ho, avrei potuto dire due parole anche sull'accelerazionismo, nel senso che c'è un movimento, diciamo, di sinistra, progressista, che è l'accelerazionismo. Anche lì, in una prima fase, a mio parere, dal punto di vista teorico, avevo molti dubbi, perché mi sembrava che si cercasse di vincere il capitalismo sulla dimensione su cui è più forte, quella della gestione del tempo, appunto. Credo che nell'ultima opera, Inventare il futuro, si parli in una maniera più sensata, e che condivido abbastanza, che è un po' la risposta agli anarco-primitivisti che dicono no, basta tutte le tecnologie, come se potessimo vivere in 7 miliardi sulla Terra senza nessuna tecnologia. Una cosa veloce per spiegare l'accelerazionismo, proprio due parole per spiegare. All'inizio la teoria dell'accelerazionismo era le tecnologie, soprattutto le tecnologie di cui abbiamo parlato molto stasera, dell'informazione, della comunicazione, sono molto importanti, dobbiamo non solo utilizzarle, ma utilizzarle, essere più abili e anche più veloci, quindi accelerazionismo, di come le utilizza nei nostri confronti il capitale, come per dire dobbiamo avere una capacità di andare più veloci del capitale. A me sembrava, ripeto, un sogno, nel senso qualcosa di situarsi sulla dimensione del tempo su cui il capitale, abbiamo parlato tutta la sera del tempo, come usa l'attenzione, le cose, cioè come il capitale gioca sul tempo per condizionarci, essere più bravi del capitale o situarsi su questa dimensione, mi sembrava una cosa che non funzionasse, non potesse funzionare bene. Ripeto, c'è stata un'evoluzione dello stesso autore, degli stessi autori, di cui uno ha un nome impronunciabile, il più famoso Snitzek, qualcosa di questo genere, che nell'ultimo libro, che si chiama Inventare il futuro, modera molto questa cosa e dice no, non possiamo fare a meno delle tecnologie. Poi dice anche delle cose cui si può essere d'accordo o non d'accordo, parla di Volkspolitik. Chiuderò con questo punto qua. Parla di populismo di sinistra, io mi sono molto più perplesso. Vabbè, questo è un altro discorso. Ripeto che a mio parere, parlando ancora un attimo di questo argomento, l'idea dall'altro lato, all'altro estremo, ci sono quelli che vengono definiti, poi magari la definizione non è corretta o esatta, anarco-primitivisti, che dicono, io li ho incontrati anche al movimento delle Nuit Debout in Francia, c'erano e dicevano basta le tecnologie. Quando io dicevo ma come facciamo a 7 miliardi a vivere senza nessuna tecnologia, a sfamarci, diceva no, ma non c'è problema, tanto poi ci sarà un'ecatombe, restiamo 200 milioni e quindi tutto va bene. Insomma, è una visione che, presa così, molto semplificando troppo e al massimo diventa un po' fascista, insomma, no? Moriamo tutti, cioè tutti muoiono, quelli che sopravvivono vivono come ai tempi primitivi. Ecco, quindi ci vuole anche lì una misura in queste cose. E poi, vabbè, sempre per parlare di tecnologie, di nostro uso di tecnologie, ho letto un libro recente che in francese non è stato ancora tradotto in italiano, che si chiama Criptocomunismo, e dice, ma con le tecnologie della blockchain, e quindi quelle del bitcoin in qualche maniera, noi potremmo, uno dei grandi difetti del comunismo è stato di creare una burocrazia, come dire, despotica, dittatoriale, insomma, che sconvolge il principio di una democrazia diretta dal basso, e quindi noi per mettere in opera una democrazia diretta dal basso abbiamo i principi della blockchain che si potrebbero sostituire alla burocrazia sovietica. C'è qualcosa di interessante, ma anche questo sarebbe molto rischioso. Allora chiudo citando Giuliano. Sì, citando Giuliano, che aveva scritto una bella recensione su neurocapitalismo, e che dice, c'era stato un articolo che diceva che insomma tutte queste pratiche sociali ed economiche diffuse e virali, no, che nascono, non ne abbiamo parlato, ma insomma che anche utilizzano le tecnologie e che fioriscono un po' dappertutto. Noi qua, cioè il piano terra ne è una, per esempio, no? Qua dentro ci sono tante iniziative, sono inefficaci, sono diffuse dappertutto, ci sono qua, ci sono in Francia, ci sono in tutto il mondo, sono inefficaci però, perché poi dal punto di vista politico subiamo sia qua che in Francia che in Inghilterra delle cose orribili in questo periodo, e quindi tutto questo nostro cercare di cambiare il mondo di queste pratiche economiche virali sono inefficaci senza una strategia politica. È stata una critica al mio libro che era apparsa sul Manifesto, e Giuliano aveva risposto che forse questi processi, lo cito, dove si sviluppa l'humus in grado di fermentare una nuova possibilità di resistere all'entropia e la sconfitta definitiva della nostra avventura di umano, sono indispensabili. Poi adesso discutiamo. Ho finito. Ci sono domande? Beh. Qualcuno che rompa il ghiaccio? Sì, io... Non abbiamo il microfono, purtroppo. Provo a alzare la voce, diciamo. Credo che sia più positivo, rispetto magari a dei anni passati, il fatto che sia venuto il velo di... che ci sia un tempo cristallizzato. Diciamo, cerco un po' di dire il contrario di quello che hai detto tu. Cioè il fatto che il tempo scorra anche a velocità, quello che cambia sono le velocità di scorrimento del tempo, il tempo non si può controllare, quello che cambia è, parlando proprio in termini informatici, la velocità di operare, cioè il numero di operazioni per unità di tempo, giusto? Giusto. Noi esseri umani abbiamo un certo clock che non è quello dei computer, è infinitamente più veloce, però anche noi abbiamo un clock, anche noi abbiamo una vita biologica che termina. E ci sono diversi tempi, il tempo solare, cioè, e invece magari nei decenni precedenti appunto si cristallizzava con delle routine, con delle ritualità di cui parlavi tu, e si faceva credere che il tempo non trascorresse. Invece dobbiamo vivere con l'ansia che il tempo corre velocemente, e quindi dobbiamo maggiormente dedicarci a elaborare, pensare e soprattutto agire, no? Perché il tempo non è immobile, non lo controlliamo noi, il tempo scorre, e quindi dobbiamo vivere nell'ansia di questo tempo che corre, e non sappiamo fino a quando saremo nel flusso spazio-temporale. Anche il neurocapitalismo crea delle applicazioni di bolle, di assenza di tempo. Tutti credono di, appunto, che il tempo non trascorra, non passi. Sono migliaia le stimolazioni, le applicazioni in qualche modo multimediali che creano delle nuove routine, creano delle oasi in cui le persone vivono in una zona di comfort e non si accorgono che il tempo scorre. Secondo me invece è importante rendersi conto che il tempo scorre anche molto velocemente. Sì, magari ne accumuliamo se ce ne sono due o tre, poi se c'è qualche altra domanda. Ma io il tempo è sull'uso, diciamo, dei computer, se faccio come l'industrialista, quello che fatico a capire della evoluzione delle discussioni, delle teorie, provo a dirla in termini sintetici così. La prima volta che all'IBM una lavoratrice prese una contestazione disciplinare perché non aveva archiviato 400 pratiche in un giorno, il cottimo sugli impiegati, è una roba che lo sta, come dire, non è mai stata contrastata. Faccio un esempio sulle catene di montaggio. Io ho vissuto in un'azienda dove c'era la catena di montaggio, facevo l'impiegato, ma si lavorava a 70 pezzi all'ora, cioè più di un pezzo al minuto, però 70. Oggi all'Electrolux gli chiedono 120 pezzi. In mezzo c'è stato, diciamo, dalla catena di montaggio Fiat anni 70, col 30% di lavoratori ridotte capacità lavorative, quindi massacrati dal lavoro, insomma rovinati dal lavoro, col Dimetri con un 20% in più, Marchionne e Electrolux sono molto più avanti. Ci sono anche i robot, però mentre ci sono i robot sembra che una parte dei lavoratori soggetti al capitalismo vengono colpiti, quelli di Amazon, con l'algoritmo. Si discute dell'algoritmo e si perde di vista, che ne so, la cameriera che a Milano, prima gli alberghi erano, non dico quattro, però c'erano quelli che c'erano, lavoravano con i ritmi normali, la gente lavorava lì 20, 30, 40 anni, adesso alle cameriere viene chiesto il cotto, se non fai quelle... E questo vale per un sacco di lavori. La difficoltà è mettere insieme, diciamo, il peggioramento che avviene progressivamente e questa ristrutturazione permanente, non so come dire, che colpisce a ondate, e si discute dei rider, per carità, piuttosto che di altro, perché è la punta emergente. In realtà c'è questo peggioramento, e adesso i giri gialli sono una cosa un po' particolare. Anch'io sono rimasto stupito del fatto che lì riescono, con i limiti, a fare, diciamo, delle assemblee locali e a mandare all'assemblea nazionale due scegliendoli insieme. Ovviamente non è vietato andare ad altri, no. Ma non possono parlare, quindi, diciamo, la forma di democrazia semplice. Però questi aspetti, diciamo, del tempo che viene, diciamo, contrastato e gestito da, io ho in mente il programma SAP, che è una roba che nasceva per SAP, è quello che parlavo prima, le ERP. Ogni azienda, la multinazionale compra un'aziendina, ne compra 10 o 12 all'anno, incorpora il prodotto, lo fa fare da un'altra parte e incorpora le capacità, le professionalità, le conoscenze, esatto. Ne perde una parte indubitabilmente perché non riesce mai. Però questo sistema avvolge anche, pensato per i militari o per realtà produttive, avvolge anche parti, e quindi questa questione qui di come collegare una reazione, diciamo, una controffensiva a questo meccanismo che con questi sistemi, insomma, l'uso del computer, eccetera, consente di peggiorare le condizioni, è una reazione che non c'è. Quando dico una difficoltà da questo punto di vista. Sì. Dunque, vabbè, una prima così. Innanzitutto sulle due domande, cioè sulle due osservazioni, i due discorsi, quello che avete espresso, direi che è vero che ci sono delle situazioni in cui si perde il senso del tempo. Probabilmente in certe situazioni che riguardano, adesso io non lo pratico, non sono di quella generazione, però mio figlio sì, e lui me ne spiega, in certe situazioni relative ai videogiochi, a tutta questa classe che si sta creando, che chiamano i net o gli hikikomori in Giappone, c'è una perdita del senso del tempo. Però personalmente non lo so, l'uso del termine ansia invece mi sembra molto legato alla struttura, diciamo, organizzativa del capitalismo, e ti mettono sempre un'ansia, una paura, e infatti il tempo diventa importante, e lo contrappongo quasi idealmente all'altro discorso in cui dice: attenzione, non ci sono solo i rider, è vero che sono una categoria emergente di cui parliamo molto, che sono dei giovani, che praticano, che bene o male sono o geek o comunque con una grossa pratica della tecnologia, però non dimentichiamoci che questa cosa del cotmo, dei ritmi di lavoro, dei 70 pezzi che diventano 120 della catena di montaggio, delle cameriere che devono fare più stanze, è qualcosa che è, bene o male, è una gestione, un'ansia, no? Un'ansia, questa è un'ansia rispetto al tempo che viene imposta nel tempo di lavoro. L'ansia che poi rispetto alla produzione, io parlo di ansia vitale. Cioè. Ah, l'ansia, certo, però va bene. Ecco, dopodiché, per quello che tu dici, è vero che parliamo, che si parla molto, e devo dire sia in Francia e forse anche in Inghilterra, di questa cosa dei rider, come si parla molto degli autisti di Uber, perché ci sono state anche delle proteste, delle organizzazioni sindacali, i rider poi si organizzano, noi li abbiamo a Parigi, abbiamo organizzato delle serate come queste in cui sono venuti a spiegarci, siamo rimasti molto sorpresi da noi vecchi. non dico che abbiamo una mentalità sindacale, perché non ho mai avuto degli ottimi rapporti con i sindacati, però noi siamo rimasti molto sorpresi quando ci hanno raccontato che in realtà le loro lotte, perché hanno creato una specie, parlo di Parigi, una specie di sindacato, ma lo stesso c'è qua, in cui le loro lotte, e loro non vogliono assolutamente essere, come dire, passare con uno statuto di salariati e dipendenti, no, vogliono solo ed esclusivamente essere pagati meglio, perché anche lì, nota bene, eppure è qualcosa di molto recente, stanno modificando progressivamente l'applicazione degli algoritmi per ridurgli, per esempio prima erano pagati in certe organizzazioni, in certe società, non so se Foodora o Perizia, eccetera, erano pagati all'ora, tu ti dichiaravi disponibile a partire da una certa ora e quindi poi fai due consegne, fai tre consegne, fai cinque consegne in un'ora, comunque sei pagato all'ora, e quindi se capiti in un periodo in cui c'è poche consegne, comunque tu, e questo l'hanno tolto, sei pagato solo alla consegna, no? Ecco, questa tensione continua di aumentare i ritmi, e non mi stupisce, certo che anche le cameriere, poi dietro le cameriere anche lì ci sono degli algoritmi che gestiscono, visto che adesso sono probabilmente a Milano si tratta di decine di migliaia, dico così, magari anche di più, di stanze di albergo che vengono gestite, visto il ruolo di Milano. E a mio parere, vedete che si retrocede sempre, no? In Francia ci sono state tutte le leggi del diritto del lavoro che somigliano molto ai job acts, e qua stiamo continuamente retrocedendo. Allora, parlando con un amico italiano che vive in Francia, che ha scritto diversi libri, si chiama Maurizio Lazzarato, dice: ma in fin dei conti, e dice, guarda, continueremo a retrocedere, perché quello che non li faceva, che impediva di retrocedere, anzi che ha permesso di ottenere tutte le conquiste sociali che adesso ci stanno portando via, cos'è stata? È stata la paura della rivoluzione. Non hanno più la paura della rivoluzione, un pochino con i giri gialli sì, perché si va all'Eliseo e si attacca all'Eliseo, cioè alla sede del presidente. Ecco, per questo trovo che era abbastanza interessante. Penso che questo sia poi un aspetto su cui bisognerebbe anche riflettere. Continueremo a retrocedere fino a che non c'è una controforza di cui dicono: ah sì, ma qua bisogna fare attenzione. Io volevo rispondere un attimo È vero che la velocità del tempo che è determinata dalla tecnologia può farci sembrare che il tempo diventi più prezioso perché costringerci in qualche modo a vivere di più. In realtà crea quest'ansia che ci fa vivere di meno, perché diventa qualcosa da consumare il più fretta possibile e non tiene conto dei ritmi nostri, biologici, della vita, di quello che c'è intorno. Cioè il tempo diventa sempre più una merce rara che rischia di esaurirsi, e per cui è una cosa che addirittura si può, ci sono addirittura anche l'idea delle banche del tempo, che era un'idea partita un po' per ovviare questa cosa, ma poi invece ha questa controindicazione, che anche in questo modo si arriva a mercificare il tempo e a, in qualche modo a distruggere. Non so se adesso sarebbe un discorso molto lungo, ci vorrebbe forse una. Io una piccola cosa, scusate, la storia che dicevi tu prima di un Uber e delivery che mettono sempre più stress, più ansia per fare più corse, agisci sempre solo sulla monetizzazione del tempo. Invece adesso è nata purtroppo in Francia un'altra lotta, sempre sul tempo, che danno dei tempi strettissimi alle infermiere. L'ospedale è toccato e là non è più questione di soldi, è questione di vite umane. Sono costrette a fare in un tempo minimo riguardo le persone che sono ospitalizzate, di curarle, di fargli il bagno, di dargli da mangiare, per cui le persone sono proprio abbandonate, c'è gente che non viene lavata per giorni perché non hanno quei tempi che gli danno, non hanno più la possibilità di accudire come facevano una volta. Per cui questo secondo me è un tasto in cui succederà qualche cosa, perché toccano la vita umana, che toccano qualcosa di diverso che è il solito monetizzare il tempo, no? Può essere forse una possibilità che fa scatenare una contestazione più importante. Ma penso che sì, che è vero, ma penso che dentro un movimento come quello dei gilet gialli, come in un altro senso anche il movimento dei giovani che lottano sugli aspetti climatici, ci sono quelle considerazioni rispetto a non so se rispetto alle infermiere nel particolare, ma che ha a che fare con le vite umane. In ogni caso c'è sempre un riflesso sulla qualità della vita umana, però è vero che questa cosa delle infermiere tocca direttamente, è molto più politica, la vita biologica degli individui. Sì, a me colpisce di questo periodo la consapevolezza delle persone, nel senso che si parlava prima del non c'è il pericolo della rivoluzione, ed è una roba veramente grossa, nel senso che era assurdo. Adesso siamo in un tempo dove la comunicazione è possibile, cioè non vuoi sapere alcune cose, quindi l'impressione è come se c'è la possibilità di ricevere informazioni, però la non consapevolezza delle persone di quello che stiamo vivendo, quindi a tal punto che non facciamo rivoluzione, anzi addirittura aderiamo a dei populismi, voglio dire, che ci danno l'impressione di fare qualcosa, mentre in realtà non è la e mi colpisce perché dico, ma cavolo, è dietro l'angolo, cioè non è lontano, gli anni 70, voglio dire, i 60, periodo di lotte, adesso ci sono condizioni, appunto, stiamo andando indietro, eppure, cioè, dove confluisce quello? Perché la rabbia in qualche modo la sento, la gente si lamenta, però confluisce, non so, È stata deviata, a mio parere, in Italia. Qua c'è una differenza fra l'Italia e la Francia che può essere interessante, sì. No? Non lo so, io lo vedo vivendo più in Francia che non in Italia. Penso che qui questa rabbia c'è. Però è stata in qualche maniera deviata, e devo dire, per non nominarlo, soprattutto da questo fenomeno del Movimento 5 Stelle, no? Il Movimento 5 Stelle che ha cominciato a usare delle terminologie tipo democrazia diretta, che però non era una democrazia diretta, in realtà era il connubio di di qualcuno che sa, un comico, ma non lo dico solo in senso caricaturale, di uno che sa tenere una platea, una, che ha un carisma, e di un informatico dietro, però ecco, credo che ci sia stata questa divisione, deviazione, che in Francia non c'è, perché in realtà la scelta è proprio solo fra populismo fascista, Marine Le Pen e Salvini sono le alleati, e Macron. In Francia c'è sta, e in Italia c'è stata questa, come dire, non so se chiamarla illusione, deviazione, una cosa in cui uno sfogo antisistema ha preso quell'indirizzo lì, però è tattico, perché come si può notare dopo un anno di governo, mi sembra che sia evidente che non è una strada che porta, cioè mi pare, detto fra noi, che sia che la strada istituzionale, quindi riguarda anche il Movimento 5 Stelle, sia finita in Europa, parlo, con la Grecia. Cioè, dopo la Grecia penso che tutti abbiano capito chi comanda e che votare in un senso. Questo è quello che penso io, non vi chiedo di condividere, che votare un partito, votarne un altro, votare a sinistra, votare all'estrema sinistra e cercare di cambiare le cose in quella maniera lì, non funziona, perché poi quando si arriva ai nodi al pettine sono loro, cioè è il capitalismo finanziario che decide cosa si fa e cosa non si fa. Mi sembra molto chiaro quello che è successo in Grecia. Quindi dopodiché questa cosa del Movimento 5 Stelle durerà quello che durerà. Dopo che ci siano altri intermezzi che sono ancora peggio di loro, io spero proprio di no, ma insomma. No, nella domanda non l'ho esplicitato, cioè l'idea che questo addormentamento di coscienze è dato, come dire, da anche questo sistema, come dire, di informazione che si è creato, per cui è creato, come dire, una sorta di paradisi, di, è una domanda che dico, ma com'è possibile? Cioè, cos'è successo? Cioè, a un certo punto ci siamo veramente, almeno qua in Italia, addormentati. Io mi spavento a volte, perché dico, ma cacchio, vorrei tornare indietro, quantomeno la gente aveva un senso di appartenenza, adesso siamo così tutti parcellizzati, e poi quando dobbiamo votare, che è l'unico momento così, si va a votare, no? Questi così, che alla fine non portano da nessuna parte. Dico, ma allora, cosa sta accadendo? Beh, sono 40 anni di... Io sono più vecchio di te, ma sono comunque 40 anni e quasi 50 anni di neoliberismo, e è stata coltivata anche tramite i dispositivi tecnologici, quando ho parlato di servitù volontaria, è stata coltivata questa... c'è stato proprio coltivare l'individualismo, no? 40 anni vuol dire che ci sono generazioni, una maggioranza di generazioni che non ha vissuto altro che questo spingere a coltivare l'individualismo. Questo non vuol dire che è finita, perché vedete che appunto è possibile che poi a un certo punto ci siano dei salti, delle prese di coscienza, per cui questo tipo di controllo, questo tipo di orientamento di fondo dei processi di pensiero, dei comportamenti a cui siamo spinti continuamente, in cui intere generazioni non hanno conosciuto altro che questo, può essere superata a un momento dato. Però questo spiega, ecco perché tu chiedi perché, secondo me questa è una delle principali spiegazioni. 40 anni di individualismo, un sistema che spinge all'individualismo, credo. Però non vuol dire che tutto è finito, perché è possibile che ci sia, a un certo punto le cose possono, c'è un capovolgimento, no? Quando si arriva al limite. Poi ci sono le deviazioni, i condizionamenti, il protrarsi delle cose, però ecco, questo io penso che possa essere una parziale spiegazione. Io condivido pienamente quello che diceva Giuliano rispetto al bisogno di un po' di empatia, e dunque sono molto contento di aver potuto assistere a questo tuo intervento. Che trovo molto stimolante, molto bella anche le immagini scelte per accompagnare, e penso che, non vorrei essere troppo astratto, perché chiaramente io poi penso a Frédéric Lordon piuttosto che a Bernard Stiegler, cioè penso a questi due modi diversi di concepire il desiderio. Da un lato Banastiglia dice c'è una sincronizzazione delle nostre coscienze, no? Ci sono gli oggetti tecnici industriali che ci portano a vivere sempre di più individualmente un tempo che pensiamo essere diverso da quello degli altri, ma in realtà è esattamente uguale. E dunque c'è un impoverimento della nostra capacità simbolica. Siamo sempre più convinti di essere unici, ma siamo sempre più uguali nel senso di omologati. E questo è un tipo di desiderio che in qualche modo riferito a quello che dicevi tu prima, cioè del lifetime value, cioè la valutazione del nostro tempo di vita, cercare qual è il maggior tipo di informazione da questo tempo di vita che ci viene offerto. E poi da un'altra parte c'è, e questo dunque lo vedo più come una specie di rapporto con la nostra tempo di coscienza, e dunque un tempo in qualche modo individualizzato. E sull'altro fronte invece Frédéric Lordon che dice, no, attenzione, il desiderio, ci possiamo dargli un'angolatura, cioè c'è un desiderio maestro, padrone, diciamo, però noi possiamo anche dargli un'angolatura. Allora sono d'accordo con quello che dice Giorgio, penso che sia, sì, con quello che dice, cioè che a un certo punto come dire, è inutile sperare di tornare a una specie di anarco-primitivismo o a una... Però è anche vero che forse possiamo inserire delle sequenze parassitarie all'interno, sì, di quelle che sono le sequenze già preordinate. Cioè creare questo tempo di elaborazione dove in qualche modo ci riappropriamo, come in questo momento. Cioè, se blocchi i meccanismi. Esatto. Ed è per quello che sono d'accordo quando dici, no, attenzione, non si può semplificare riconducendo a delle, come dire, paradigmi già. Ci richiamano all'ordine. Siamo arrivati alla termine, vorremmo ringraziare tutti e tutte per aver partecipato. È pronto? Spaghetti like, una gradazione di blu che vedete tutti i giorni sul vostro schermo quando parlate con i vostri amici sarà anche declinata all'interno di quello che mangiate. Quindi voi che speravate di disconnettervi dalla vostra faccia libro lo ritroverete anche nei vostri stomaci. Dopo c'è il film, portatevi giù la sedia, ce ne sono già alcuni, ci sono due mediometraggi, diciamo. E rilanciamo, come ha fatto prima Giuliano, al prossimo appuntamento che si terrà alla Cascina Torchiera in piazzale Cimitero Maggiore 18, dove è presente anche l'archivio e la biblioteca di Antonio Caronia, e sarà un momento in cui, diciamo, faremo la festa prima della nostra fine, che è dell'uomo, di tutto, in cui invitiamo ovviamente tutti quanti e tutte quante a partecipare, quindi... E ringraziamo Giorgio Griziotti, il cui podcast con l'audio di questa sera sarà tra qualche giorno. Grazie a voi.